E allora inizia l'agenda di quest'oggi a Temi Sfatti, ben trovate. Ciao. Ciao. La iniziamo con un salto indietro nel tempo e poi con una questione che ai noi è sempre molto attuale. Parliamo della legge 194, oggi è l'anniversario della sua approvazione, era infatti il 22 maggio del 1978, veniva approvata questa legge, parte anche un po' controversa, nel senso che era una legge ovviamente voluta dalle donne, un modo diciamo per affermare la liberazione, diciamo così, per liberarsi dal destino della maternità. C'era una legge in Italia che vietava nei fatti l'aborto e quindi queste donne chiedevano il movimento, insomma, femminista, non in tutte le sue componenti, ma insomma comunque è stata una legge diciamo molto desiderata dal basso. Poi sappiamo che insomma la legge è uscita un po' così e così per metà appunto accoglieva le proposte del movimento femminista, di parte del movimento femminista, e per l'altra metà anche l'antidoto, diciamo proprio all'autodeterminazione delle donne, prevedendo anche una serie di restrizioni insomma all'applicazione dell'aborto. Tanto prevede l'obiezione di coscienza, cosa che ai noi sappiamo molto bene, infatti è il modo per cui non viene poi nei fatti applicata come dovrebbe essere. Eh sì, infatti. Poi richiede il consenso, questi erano i punti più criticati, insomma, il consenso dei genitori per le ragazze minorenni o in alternativa di un giudice tutelare. Abbiamo sentito un mese fa da una compagna dei Castelli quello che insomma il giudice tutelare ha proibito ad una minorenne di abortire, quindi insomma comunque il controllo è diciamo molto presente in questa legge, e poi anche l'obbligo di rivolgersi appunto alle strutture pubbliche. Sono tutti aspetti inerenti al controllo del diritto all'autodeterminazione, per cui insomma è uscita un po' con i suoi limiti questa legge, diciamo. Sì, anche se devo dire che nella fase in cui siamo adesso sembra rosea, esatto. E sembra paradisiaca. Infatti, no, giustamente oggi sono ancora oggi tante le femministe, insomma, meno male che c'è, si battono per la sua applicazione. È una battaglia diciamo comunque infinita, perché in effetti l'applicazione della 194 lo sappiamo, ma non stiamo a ripetere le tante cose che diciamo quasi tutte le settimane. Nei fatti è effettivamente la sua applicazione è effettivamente difficile, insomma, quantomeno diciamo controversa. No, da un lato noi forse, cioè non lo so, è inutile che ricordiamo l'attualità, è vero che siamo nell'agenda eccetera, però ci piaceva fare come dire un po' un esercizio di memoria e ricordare che poi il dibattito intorno alla nascita di questa legge fu estremamente vivace e ricco di posizione all'interno del movimento femminista. Peraltro c'erano dei gruppi, soprattutto quelli che facevano autocoscienza eccetera, in tutta Italia, che non erano neanche d'accordo insomma con l'idea di richiedere una legge. Loro volevano la depenalizzazione dell'aborto e basta, e con delle motivazioni effettivamente anche molto molto interessanti. Erano per quello che poi si sviluppò all'interno del movimento femminista, delle giuriste soprattutto del movimento femminista, come diritto leggero, cioè la necessità di non legiferare troppo con delle leggi diciamo universalmente valide per tutte e tutti, argomenti inerenti ai desideri, al corpo, alla sessualità eccetera. Dibattito che si è riproposto anche infatti per l'approvazione della legge 40. Sì, delle tecniche di riproduzione assistita, dove si è tanto combattuto perché si voleva il riconoscimento giuridico dell'embrione. Esatto, e quindi anche l'annullamento della 194 e soprattutto l'impossibilità per una donna di viversi la gravidanza. Non avrebbe neanche potuto più prendere, penso, un antidolorifico senza consultare in giudice, insomma, esatto. Se sarebbe arrivato a questo, per fortuna però non è successo. Però la 194 diciamo che ha un'ambiguità di fondo, per cui lascia aperte purtroppo queste porte, e quindi negli ospedali la maggior parte, sebbene c'è scritto, poi abbiamo riletto prima, c'è scritto che i medici obiettori devono dichiararlo al momento dell'assunzione, cosa che sicuramente, vabbè, non avverrà mai. Dopodiché, insomma, questa legge ha lasciato molto spazio, purtroppo. Ma infatti è frutto senz'altro di un compromesso, e forse anche le ragioni di chi la legge non la voleva, insomma, non erano poi così campate in aria, anche tutto troppo in mano alla medicina, poi, no? Sì, infatti, formale, a parte quello che, appunto, lo ricordiamo, le donne abortivano in ogni caso, non si tratta di un'operazione a cuore aperto con tecniche di, insomma, cioè, diciamo, come tipo di intervento è piuttosto semplice, per non parlare della farmacologia che oggi, diciamo, con la RU486 e altri strumenti di questo tipo, rende, insomma, di fatto l'aborto anche ampiamente praticabile senza dover fare quell'iter devastante di ospedale, eccetera. Comunque sì, è una legge che prevede il controllo senz'altro sul corpo della donna, un po', diciamo, appunto, da un lato lo ricordiamo, e noi parliamo sempre anche di tutte le battaglie in difesa di questa legge, perché comunque sancisce la libertà, l'autodeterminazione, la libertà, diciamo, di procreare o meno, però, ecco, appunto, contiene degli elementi problematici che del resto buona parte anche del movimento femminista aveva messo a fuoco. C'è un famoso libro, vabbè, questo è degli anni dell'87, però, della Libreria delle Donne di Milano, Non credere di avere dei diritti, uno dei testi importanti, insomma, da leggere per chi è interessato alla storia delle idee del femminismo, e in cui appunto si dice non crediate che il diritto, cioè la legge, generi dei diritti. E infatti vediamo che la difficoltà dell'applicazione di questa legge non è un caso, cioè teoricamente va monitorata continuamente. Esatto, ma nei fatti non produce effettivamente questo diritto. E quindi noi, facendo questo salto indietro nel tempo, andiamo anche a recuperare un testo che è un testo che è stato scritto nel 1971, è un testo di Rivolta Femminile, le stesse che hanno scritto Sputiamo su Hegel, La donna clitoridea, La donna vaginale, gruppo di autocoscienza, gruppo politico. Tra le altre, insomma, c'era anche Carla Lonzi, e è un gruppo che ha molto insistito sul fatto che la liberazione delle donne passasse per la divisione, per la separazione della sessualità tra, diciamo, la maternità e la sessualità, appunto, la maternità come sessualità vaginale e la sessualità clitoridea, cioè la sessualità come piacere. Allora, andiamo a leggere alcune riflessioni che riguardano proprio l'aborto e la battaglia per l'aborto. Il gruppo, lo ricordiamo, insomma, era per la depenalizzazione dell'aborto, invece contraria ad una legge ad hoc. Scritto nel 71, noi di Rivolta Femminile sosteniamo che da 1 a 3 milioni di aborti clandestini calcolati in Italia ogni anno costituiscano un numero sufficiente per considerare decaduta di fatto la legge antiabortiva. La comunità femminile ha rischiato la vita, l'ostracismo civile e religioso di uno stato patriarcale, affrontando clandestinamente le pratiche abortive alle quali tuttora è affidata l'ultima parola per sottrarsi a un processo di gestazione non voluto. Ci rifiutiamo oggi di subire l'affronto che poche migliaia di firme maschili e femminili servano da pretesto per chiedere agli uomini di potere, ai legislatori, quello che in realtà è stato il contenuto espresso da miliardi di vite di donne andate al macello dell'aborto clandestino. Noi accederemo alla libertà di aborto e non a una nuova legislazione su di esso, a fianco di quei miliardi di donne che costituiscono la storia della rivolta femminile, perché solo così faremo di questo capitolo fondamentale della nostra oppressione il primo capitolo di presa di coscienza da cui minare la struttura del dominio maschile. Una procreazione coatta e ripetitiva ha consegnato la specie femminile nelle mani dell'uomo, di cui ha costituito la prima base di potere. Ma oggi anche una procreazione per libera scelta, tra virgolette, quale contenuto liberatorio può avere in un mondo dove la cultura incarna esclusivamente il punto di vista maschile sull'esistenza, condizionando così a priori ogni libera scelta della donna? Libera sessualità e libera maternità, cioè le premesse della donna come persona, a distanza di millenni, passano ancora attraverso l'affermazione del libero aborto? Libera maternità e libera sessualità devono trovare i loro significati all'interno della nostra presa di coscienza. Solo così saremo sicure che la libertà di cui si parla è la nostra e non quella del maschio, che si realizza attraverso di noi, attraverso una nostra più occulta oppressione. Le donne abortiscono perché restano incinte. Ma perché restano incinte? È perché risponde a una loro specifica necessità sessuale che effettuano i rapporti col partner in modo tale da sfidare il concepimento? La cultura patriarcale non si pone questa domanda, poiché non ammette dubbi sulle leggi cosiddette naturali. Evita solo di chiedersi se in questo ambito ciò che è naturale per l'uomo lo è altrettanto per la donna. Lo dà per scontato e difende con ogni mezzo la sessualità dell'uomo patriarcale come sessualità naturale per entrambi, uomo e donna. L'uomo ha lasciato la donna sola di fronte a una legge che impedisce di abortire, sola, denigrata, indegna della collettività. Domani finirà per lasciarla sola di fronte a una legge che non le impedirà di abortire. Sola, gratificata, degna della collettività. Ma la donna si chiede: per piacere di chi sono rimasta incinta? Per il piacere di chi sto abortendo? Questo interrogativo contiene i germi della nostra liberazione. Formulandolo, le donne abbandonano l'identificazione con l'uomo e trovano la forza di rompere un'omertà che è il coronamento della colonizzazione. Allora, con questi interrogativi e con un augurio alla legge 194 che nasceva nel 1978, proprio nella data di oggi, noi proseguiamo l'agenda invece del 2012, del martedì autogestito.